Vediamo che non piova, come chiama la parola Alfredo Salzano? E vediamo se ce la facciamo. Dovrebbe essere di passaggio, quindi potremmo ipotizzare un intero... Dovrebbe essere. Però mi sembra che qualche goccia comincia a cadere. Vediamo un po'. Alfredo. Sì, dalle mie letture marxiste ricordo anche il tema che allora mi affascinava del deperimento dello Stato. Quindi sono... mi trovo un po' scosso da questo farsi Stato, da questo richiamo forte alla necessità, al progetto di farsi Stato. E effettivamente c'è una diversità di punti di vista sulla politica come istituzionalizzazione e subito dopo c'è una diversità radicale di autodefinizione della sinistra. Cercherò di dire come. Istituzionalizzazione, politica come istituzionalizzazione attualmente è o istituzionalizzazione di una realtà pregressa, cioè ci troviamo di fronte a forme e modi della politica che hanno le loro radici, la loro origine storica più immediata nell'epoca fordista, dell'organizzazione del lavoro fordista, corrispondente, secondo la lettura che ne ha fatto Beer, al compromesso socialdemocratico. D'altra parte, e qui introduco subito il tema del terzo settore, su cui vorrei intervenire più propriamente, c'è un'istituzionalizzazione politica in corso molto forte, che è molto di respiro, insomma, non di breve periodo, che non viene dalla sinistra, viene dal grande capitale finanziario internazionale, viene dai poteri costituiti e costituisce il loro progetto, il progetto di surrogato, di sostituzione del welfare state. Di fronte a queste due ordini di istituzionalizzazioni compresenti, a mio avviso la posizione della sinistra si definisce, come è già stato detto, nel suo rapporto col sociale, perché abbiamo appena attraversato da 15-20 anni una nuova grande trasformazione, la composizione sociale del post-fordismo è diversa da quella dell'epoca precedente, compito della sinistra, logicamente, di una sinistra politica, perché a questo tavolo nessuno rifiuta la politica, è di creare una propria istituzionalizzazione alternativa delle forme che emergono dalla società. A mio avviso la sinistra, non la sinistra ufficiale, la sinistra di vecchia istituzionalizzazione o la sinistra che è subalterna, come dice Marco, alla seconda destra, non è in grado di affrontare. Siamo qui proprio per dare voce, dare parola, non noi individualmente, ma come terminali di una serie di riflessioni che hanno prodotto concetti che consideriamo adeguati alla realtà in trasformazione. Il caso del terzo settore è un ottimo esempio e va trattato in termini estremamente concreti. Ho parlato di terzo settore come forma di istituzionalizzazione politica di una esigenza dell'epoca, quella di surrogare il welfare. Che il terzo settore assuma, come ha detto Poggio con i suoi aneddoti finali, in Italia una forma tipicamente in italiana, all'italiana, per cui invece di darti soldi ti chiedono interessi, è solo una cosa che così può far sorridere, senza sminuire l'impegno di una serie di personaggi che vanno dal senatore Agnelli che ha, nel 94, già nel 94, ha prodotto una relazione, un convegno della Fondazione Agnelli in cui spiegava le ragioni economiche per la valorizzazione del settore non profit. Seguiva la illustrazione delle ragioni politiche per la valorizzazione del settore non profit. Abbiamo come al solito un leggero anticipo verso la Vulgata, siamo nel 94. Nell'autunno 95, mentre la Commissione Zamagni era al lavoro per studiare le forme fiscali, le modalità fiscali a favore di uno sviluppo del non profit in Italia, si esprimeva Ciampi. Ciampi vale la pena di leggerlo perché sono concetti a loro modo, dall'altra parte, molto realistici, profondamente adeguati alla realtà. Diceva Ciampi, nell'ottobre 95, l'esperienza ha dimostrato che è impossibile e sarebbe errato pretendere dallo Stato, dalle istituzioni pubbliche centrali e locali, il soddisfacimento di ogni esigenza di solidarietà. La crisi degli assetti pubblici di previdenza e di assistenza, creati con l'ambizioso obiettivo di renderli esaustivi delle esigenze sociali, è stata la prova dei limiti del settore pubblico. E sottolineo quello che segue: nei nuovi schemi gli attori non sono più solo due, lo Stato e il mercato, ma tre, Stato, mercato, istituzioni senza fine di lucro. È pieno, concludeva Ciampi, era un convegno delle società a fini non di lucro, è pieno il riconoscimento non più ancillare del terzo settore. Sappiamo da che parte viene il terzo settore, non c'è alcuna discussione da fare. Se si parla di terzo settore dalla nostra parte, non c'è nessun sospetto di apologia, c'è la posizione di un problema che io penso può essere avviato non a soluzione sarebbe, ma verso un'analisi più approfondita e verso degli sbocchi politici, introducendo le categorie delle forme di scambio. Nel quadro del terzo settore, così come è presentato da Ciampi, da Agnelli, quindi dai massimi rappresentanti del capitale privato e della gestione statale del capitale, si dice che le forme di scambio, che accanto allo Stato, accanto al mercato c'è il settore non profit, in realtà si introduce qualcosa come una nuova forma di redistribuzione indiretta che passa per le associazioni, e i protagonisti restano sempre lo Stato e il mercato. Siamo sciolti dalla natura. Io direi che se noi facciamo... Noi proviamo... ...sottratto dall'acquazzone. Il punto di partenza, come si è chiarito dall'intervento di Burgio, è quella di una presunta diffidenza o lontananza dalla politica interpretata come istituzionalizzazione in maniera svalutativa. Naturalmente non sono queste le nostre posizioni. Ci troviamo in realtà di fronte a una politica che corrisponde a una istituzionalizzazione pregressa, cioè relativa all'epoca del fordismo e all'epoca del pieno trionfo del compromesso socialdemocratico. Dall'altra parte ci troviamo di fronte a una nuova istituzionalizzazione dalla parte del grande capitale pubblico privato. Ho citato come esemplare la dichiarazione di Ciampi dell'autunno scorso, una istituzionalizzazione sulla quale si allinea la sinistra, la sinistra non sociale, che è pienamente corrispondente allo stato delle cose, che è una risposta alla trasformazione della composizione sociale, alla trasformazione del ruolo dello Stato. In particolare presenta il terzo settore come un surrogato allo smantellamento del welfare. Questo nel progetto, non necessariamente nella realtà, e ho fatto riferimento agli aneddoti molto efficaci di Poggio su a cosa potrà assomigliare un terzo settore o un no profit all'italiana. L'ho dato teoricamente in sede di Fondazione Agnelli, in sede di congresso delle associazioni a non fine di lucro. Un'altra citazione che potrei fare è quella del programma di Di Pietro, del ministro Di Pietro, del dicembre del 95, che contiene un punto, se non sbaglio l'undicesimo, a favore del terzo settore. Quindi ci troviamo di fronte a un progetto dichiarato molto lucido. Quali sono le coordinate di lungo periodo di questo progetto, in parte quali sono le sue fonti, lo possiamo ricavare dal libro di Rifkin, malamente intitolato da la fine del lavoro, perché è chiaro che non è finito il lavoro, è finito il dominio del lavoro salariato, come dice invece un autore di riferimento, André Gorz. Comunque, quale che sia il titolo, Rifkin racconta la storia interessantissima del no profit all'americana, che comincia con Reagan e viene attivata a livello istituzionale da Clinton, passando per i 1000 punti di luce di Bush. E per sintetizzare il senso di questa proposta, Rifkin dice efficacemente che nei prossimi 10-20 anni le società si troveranno di fronte alla alternativa di costruire più carceri, pagare più polizia per garantire l'ordine pubblico, oppure dare soldi, dirottare una parte dei flussi finanziari sul volontariato, sul terzo settore. E Rifkin si richiama alla tradizione americana di auto-organizzazione, tradizione mitizzata, lettura di Tocqueville, che viene ripresa dallo stesso senatore Agnelli quando nell'occasione che vi ho detto nella fondazione di Torino presentava, ben prima che il discorso diventasse così diffuso, il terzo settore o no profit come soluzione anche di prospettiva per la società italiana. Di fronte a questa posizioni, è di fronte a queste posizioni che deve definirsi una sinistra socialmente qualificata, cioè una sinistra, stavo dicendo prima dell'acquazzone, che non rinunci affatto alla politica, non è questa la nostra posizione, ma che intervenga su forme di auto-organizzazione del sociale, che dia espressione politica, che contribuisca anche a una istituzionalizzazione, ma a un'istituzionalizzazione alternativa, un'istituzionalizzazione dal basso, non un'istituzionalizzazione predeterminata e paracadutata sulle società in trasformazioni dall'alto, quale è correttamente inteso, cioè storicamente definito, il terzo settore o non profit. Nello scazzo di Arezzo la cosa era stata perfettamente capita da alcuni centri sociali. C'è in questo utile libro Centri sociali che impresa, col quale introdurrò anche il discorso sull'impresa sociale, C'è un, tra gli altri un intervento di Dario Pacino efficacemente intitolato Fra no profit e top profit. C'è il centro sociale ex Emerson di Firenze che reagisce in maniera molto decisa contro la stessa idea di impresa sociale. C'è il centro sociale Stella Rossa di Bassano del Grappa che proclama non diventeremo imprese no profit, cioè un rifiuto dell'impresa. Allora, di fronte alla definizione molto chiara del no profit o terzo settore come strategia vera e propria strategia, non espediente tattico del capitale, questa è chiaramente dei centri sociali, è chiaramente una reazione sana, una reazione di verità. Se in particolare richiamo l'attenzione sull'esaltazione dell'utilità economica e politica del no profit fatta dal massimo esponente del top profit in Italia, Agnelli. Quindi Dario Pacino ha ragione di identificare questi due termini. Vi stavo dicendo che in questo modello di istituzionalizzazione dall'alto del terzo settore, che consiste poi, detto in maniera piatta, nel risparmiare sui flussi di denaro che andavano verso lo Stato sociale e i suoi servizi, sono finiti i soldi, quindi di riversare meno soldi sul volontariato e sull'associazionismo, quindi mettendo al lavoro delle capacità, delle competenze, possibilmente non pagandole, e pagando invece che cosa? Pagando i mediatori, come succede, gli intermediari, pagando l'inquadramento, quello che un autore come Alain Beer, in un libro precedente a quello tradotto in italiano, ha studiato come l'encadrement, questo terzo protagonista tra proletario e capitalista. C'è il quadro, questo è un elemento analitico che dovrebbe essere sempre presente nelle analisi della società in trasformazione, perché evidentemente un terzo settore istituzionalizzato dall'alto presenta più che un'ambiguità, cioè può essere la via privilegiata per garantire un consenso sociale attraverso il controllo di quelli che sono i quadri di questa operazione e che intercettano una parte dei flussi finanziari sottratti al welfare. Quindi, vista in questa prospettiva, il terzo settore o il non profit risulta una protesi della coppia Stato-mercato. No? Diventa, e le parole di Rifkin sull'esperienza americana, cioè il capitolo di Rifkin sull'esperienza americana lo dimostra, le coincidenze nostrane tra no profit e top profit lo illustrano chiaramente. In tempi di smantellamento del welfare, e saranno tempi lunghi, nonostante le resistenze, su cui bisognerà fare un discorso a parte, che in parte è stato anticipato, ma abbiamo la riduzione della triade che caratterizzerebbe la nuova epoca anche secondo Ciampi, cioè Stato, mercato e no profit, alla vecchia diade, alla vecchia coppia di Stato e mercato, solo con una protesi di diverso tipo, di tipo diverso, scaricata sulla società rispetto alla protesi precedente che era quella del welfare. A questo punto ero arrivato e la mia idea è per, fare un, che per fare un discorso autonomo che integri anche le resistenze, anzi la piena avversione di alcuni centri sociali al, non solo al terzo settore, ma anche all'idea stessa di impresa sociale, si possa utilmente distinguere tra no profit e no market, lasciando tutto il no profit al terzo settore come descritto e introducendo un un'idea, un concetto di scambio non mercantile, di scambio non monetario, che oggi non potrò giustificare pienamente, quindi ma che posso, di cui posso accennare le coordinate. Le coordinate, scusate, teoriche o in questo caso storico-antropologiche, perché si tratta di storia del mercato e storia delle società, storia del rapporto economico, delle forme di scambio nelle società e qualche elemento descrizione di pratiche realmente esistenti. Il non market si può definire nel quadro di una concezione generale delle forme di scambio che derivo da, con alcuni altri, con un movimento vivo soprattutto in Francia ma che ha attecchito anche in Italia, il movimento antiutilitarista nelle scienze sociali, cioè il rifiuto di concepire tutti i rapporti sociali, i rapporti interpersonali in chiave di scambio economico o assimilabile allo scambio. È un rifiuto totale dell'economicismo nella interpretazione delle società. Secondo questo schema, che si appoggia anche sugli studi storici di Polanyi, la grande trasformazione, in tutte le società gli scambi avvengono in base alle stesse forme, che sono lo scambio di mercato, quello che c'è più familiare, scambio anonimo, denaro contro merce, senza confronto con la persona. Redistribuzione, cioè lo scambio che viene attraverso il mediatore, per semplificare chiamiamolo il mediatore Stato, cioè tutta l'azione di redistribuzione che viene fatta sulla base di prelievo fiscale in generale e poi diffuso, scambiato sulla società. C'è una terza forma di scambio di cui non si parla, che è completamente rimossa, ideologicamente rimossa. Se fate attenzione, tutto il dibattito ruota su i rapporti tra Stato e mercato, no? Quando il mercato non tira più interviene Keynes, le politiche keynesiane e lo Stato. Quando questo sistema collassa, allora si ridà fiato al mercato, ma è come sempre un gioco a due. Allora abbiamo visto che gli esponenti più avvertiti del grande capitale pubblico e privato già adesso, con un certo anticipo su di noi, ragionano in termini di tre e non di due, no? Stato, mercato e società civile. Solo alcuni teorici, come André Gorz in particolare, o sociologi applicati come Aznar, per parlare di due autori che ho pubblicato prima di Revelli e prima di Bonomi, ma nel quadro della stessa ricerca di costruzione di una nuova cultura politica, sono stati in grado di ragionare sulla molteplicità delle forme di scambio. E la terza forma di scambio è una forma di scambio che regge tutte le società ed è soltanto occultata nella nostra, ed è la reciprocità, una forma di scambio interpersonale che tutti possiamo constatare ma che non è nel discorso, cioè è presente nei rapporti familiari, nei rapporti di gruppo, questo dello scambio reciproco che coincide con il legame sociale. A mio avviso si tratta di dare una valorizzazione politica di questa di questa forma di scambio accanto alle altre e porre le prime due, la forma di scambio mercantile, la forma di scambio redistributivo statale, sotto il controllo del sociale. Questo è abbozzato il quadro, se volete, teorico, che però funziona in pratica, funziona nella nostra società, come potete fare nell'esperienza quando vi scambiate tra voi dei servizi che altrimenti sarebbero monetizzati e li scambiate contro un tacito impegno reciproco. In una specie di rapporto antropologico di dono su cui altre società si sono rette quasi per intero. Uscendo dall'Europa, uno studioso come Serge Latouche ha sottolineato come intere economie del terzo mondo si reggano nel quadro dell'economia informale su questo tipo di rapporti. Non solo, ma questo tipo di rapporti informali di reciprocità di dono, prendetelo come un termine tecnico, non equivale a regalo, non equivale a gratuità, queste società riescono a funzionare persino nel mercato mondiale, ecco, cioè è una grossa forza quella dei rapporti di solidarietà che consente di non essere schiacciati dalle altre due forme di scambio, cioè dal mercato e dallo Stato. È in questi termini che si può concepire una alternativa al no profit, un'alternativa al terzo settore. Si tratta di qualcosa che va nel senso di una auto-organizzazione, quindi di una istituzionalizzazione dal basso che ha a che vedere e che comporta anche forme di autoproduzione e lì la casistica è abbastanza vasta, anche se quantitativamente poco significativa, consente appunto. Si tratta di arrivare a una situazione in cui si possa pensare a meno mercato nella propria vita, a meno Stato nella propria vita e a più attività sociale, più legame sociale. Questa è l'idea di una possibile risposta politica al piano ben definito del terzo settore. Mi fermerei qui, salvo poi dare esempi se ci sarà una discussione.